Bene, buonasera a tutti, piacere di ritrovarci un'altra volta e per parlare, anche se brevemente, su un argomento che è veramente molto importante per noi come religiosi, non soltanto per i religiosi, anche per i sacerdoti diocesani. Questo argomento è fondamentale e perciò userò qualche volta i documenti che sono scritti per i diocesani, come la Pastores Davo Vobis di Giovanni Paolo II. Questo argomento, come ha detto Padre Clarey, è quello della formazione permanente, no? Formazione permanente nel nostro caso dei religiosi. Un'espressione che si usa spesso, ma che si capisce forse riduttivamente. Perciò credo sia importante non soltanto avere in mente la formazione permanente, ma soprattutto di sapere che voi già l'avete cominciato, perché alle volte, anche se pensa che la formazione permanente è quello che viene dopo l'ordinazione, e quello in certo senso è vero, ma anche è vero il contrario, che la formazione permanente è la formazione che si inizia con quell'etapa, come dirò adesso, che si chiama formazione iniziale, che è la vostra, questa etapa, e che è la prima tappa della formazione permanente, la formazione che comincia e non finisce mai, nella vita, no? Cosa intendiamo per formazione permanente o continua, come anche si chiama? È un processo di crescita e maturazione permanente, è quello, processo di crescita e maturazione permanente. Si contrappone, come dico, alla formazione iniziale, che è quella ricevuta durante gli anni di formazione che finisce con i voti perpetui o l'ordinazione sacerdotale, a seconda dei casi. Ma anche che si può vedere come quest'ultima, come la prima parte di una formazione totale. Ha il suo fondamento nelle parole di San Paolo a Timoteo, quando gli dice San Paolo: ti esorto a ravvivare il carisma di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. Quel ravvivare sarebbe la formazione, no? E anche questa prima citazione della seconda lettera di San Paolo a Timoteo, nel capitolo primo, e questa seconda della prima lettera di San Paolo a Timoteo: non trascurare il dono spirituale che è in te, quel aver cura. Non trascurare, ravvivare, implica un lavoro costante. La necessità nasce dal fatto che la vita religiosa è la conformazione con Cristo e la santità, cosa che suppone un processo costante di maturazione umana, lavoro di tutta la vita. Chi si ferma pensando che già tutto ciò che è necessario o che già è arrivato alla fine, oltre ad ingannarsi profondamente, inizia un processo di deterioramento e marcimento. I tre principali nemici della formazione permanente sono perciò questi: il primo, non realizzarla o non farla con serietà; il secondo, il circoscriverla a una sola dimensione, per esempio solo quella intellettuale o spirituale; e il terzo, il farla con vie sbagliate. L'essenza e la finalità della formazione permanente è mantenere vivo ciò che si è ricevuto negli anni della formazione iniziale e continuare il suo sviluppo. Dunque, un doppio scopo. Mantenere vivo e anche continuare lo sviluppo. Ci sono dei religiosi che capiscono il primo scopo, non perdere ciò che abbiamo ricevuto, ma non hanno presente che c'è quest'altro scopo, che dobbiamo acquisire tante altre cose che ancora non abbiamo, neanche il prete già ordinato. La formazione che riceviamo nel seminario, nonostante gli sforzi dei formatori e degli stessi formandi, sarà sempre basica e limitata a ciò che è sufficiente per cominciare la via di autoformazione, che sarà quella che inizia quando si esce dalla cassa di formazione. Soltanto ci danno in seminario gli strumenti per lavorare nella nostra vita, non la vita già lavorata. Non la vita già lavorata. Quando uno finisce la formazione iniziale nel seminario e si trova nella stessa nella stessa tappa che si trova il bambino quando nasce. Lui è appena nato, deve svilupparsi. Deve svilupparsi, è nato a un'altra dimensione e quello che ha ricevuto deve svilupparlo. Purtroppo suole succedere che alcuni credono che nel seminario hanno ricevuto tutto quello che dovevano ricevere per essere religiosi, cosa che è un grossolano errore. Hanno ricevuto, come ho detto, soltanto i principi con i quali dovranno continuare il loro lavoro di crescita e maturazione che li porterà, se sono fedeli, ad essere santi. Se quando finiscono la vita di formazione iniziale, no? smettono di lavorare nella crescita personale, si raggrizzano come le olive lasciate nella pianta dopo il tempo di raccolta. Se al finire si limitano al lavoro del mantenere o ripetere i contenuti della formazione avuta nel seminario, rimangono fermi in un infantilismo o in un'adolescenza spirituale. Cioè, nel primo caso, quando smettono di lavorare, non cercano nessuno dei due scopi della formazione permanente. Nel secondo caso, non cercano il secondo scopo. Soltanto il primo, mantenere. Quello ci lascia come un bambino. Come un bambino appena nato che continua a rimanere in quella situazione di appena nascita. E quello si chiama nanismo. Si deve dire inoltre che tutti questi pericoli portano a loro volta al pericolo di disincanto nella vita religiosa e accedere a tentazioni contro la vocazione, certamente. Questo perciò la formazione permanente è la difesa della nostra vocazione, anche come difesa dell'entusiasmo per la nostra vocazione. Perché la formazione permanente? Già ho detto certamente certe ragioni, no? Ma i motivi della formazione permanente sono di vari ordini. Ci sono ragioni naturali e umane. Innanzitutto, la maturazione umana è un processo che si conclude soltanto alla fine della nostra esistenza. La maturazione, la maturità, ha due aspetti, una la maturità fisica e la maturità spirituale, personale, morale, eccetera, no? La maturità fisica ha un limite. Una persona arriva fisicamente a un'età che chiamiamo precisamente un'età matura. Dopo di quell'età, dove le sue forze fisiche, biologiche, sono arrivate a un vertice, no? Comincia un periodo di decadenza, no? E la vecchiaia. Ma la maturità personale, nella sua dimensione spirituale, morale, religiosa, eccetera, tutto quello che fa lo spirito, non ha un limite. Non ha un limite. Perciò una persona che nella quale le sue forze fisiche sono andate perdute, o per la malattia o per la vecchiaia, può continuare ad essere ogni volta più matura. No? La maturazione nel piano personale non ha nessun limite. No? Un'altra ragione per la formazione permanente è il trascorrere del tempo, il lavoro e le difficoltà naturali della vita producono una spesa che si deve compensare con un mantenimento permanente. Se lo facciamo con un veicolo o con le nostre scarpe, a maggior ragione dobbiamo farlo con la nostra persona. Infine, sempre queste ragioni naturali, perché le circostanze della vita sono molto mutevoli e abbiamo bisogno di essere all'altezza di affrontare le sfide culturali, sociali, politiche e spirituali che ci si presentano continuamente. Per poter usare i mezzi di comunicazione dobbiamo adattarci continuamente ai cambiamenti che questi presentano. Oggi chi non sa usare la posta elettronica o i mezzi che le stanno sostituendo rimane isolato, e avviene lo stesso in molti altri campi più importanti di questo. E la formazione permanente fa questo adattamento, no? Ma ci sono anche motivi teologici in relazione con la nostra vocazione. Innanzitutto, Dio ci ha chiamato alla santità, e questo è un lavoro di tutta la vita, di ogni giorno della nostra vita. Tutta la vita e ogni giorno della nostra vita. Lo esige anche la nostra vocazione singolare alla vita religiosa nel nostro istituto. Il carisma di ogni istituto è una grazia viva, si dice, grazia viva che chiede di essere ricevuta e vivificata, approfondita e sviluppata. Noi parliamo alle volte del carisma del nostro istituto come qualcosa che è lì, del quale noi partecipiamo, e quello è vero, ma anche, dobbiamo dire, del quale noi siamo responsabili. Noi dobbiamo fare crescere quel carisma, perché il carisma è qualcosa di vivo. Io devo fare qualcosa per lui, incarnarlo. L'incarnare quel carisma precisamente è la formazione permanente che fa il religioso. È una grazia viva, non possiamo lasciarlo sotterrato come ha fatto l'operaio pigro della parabola dei talenti. E infine, perché siamo chiamati a salvare le anime, e se si deve stare continuamente nella ricerca del modo più efficace per farlo, cosa che esige da noi un costante lavoro di perfezionamento apostolico. Queste sono le principali ragioni o motivi per la formazione permanente. Quando si deve fare la formazione permanente? Innanzitutto, tutta la nostra vita e tutti i giorni sono il tempo della formazione permanente. È un processo che inizia, come ho detto, con l'ingresso nell'istituto e finisce solo con la morte. Un processo dal quale non possiamo dispensarci legittimamente in nessun momento della nostra vita. Possiamo tuttavia indicare alcune tappe speciali e alcune circostanze che possono suggerire la necessità di un tempo più specialmente dedicato a questo lavoro. Allora, ci sono dei tempi particolari nei quali noi dobbiamo fare un lavoro più accurato. Alle volte noi chiamiamo a questi tempi particolari tempi di formazione permanente. No? Come ho detto, se ogni giorno è un giorno di formazione permanente, è vero anche che sono dei tempi speciali, no? Di formazione permanente, tempi dove noi dobbiamo fare qualcosa di speciale per la nostra formazione permanente. Quali sono questi tempi? Innanzitutto, il primo è la formazione iniziale, che sebbene l'abbiamo considerata come l'etapa anteriore alla formazione permanente, come ho detto anche, in realtà è il suo primo momento, lì comincia la nostra formazione. In questo tempo, che è il tempo che voi state vivendo adesso in seminario, si ricevono soltanto i principi generali che dovranno svilupparsi durante tutta la vita. Commettono un gravissimo errore coloro che credono che hanno già tutto. È come se un medico credesse di sapere già tutto perché gli hanno consegnato la laurea. In realtà ha appena un'idea generale di ciò che è la salute, la malattia e la terapia. Adesso deve imparare veramente. Quando uno finisce gli studi ecclesiastici, il suo superiore dovrebbe dirgli, come mi ha detto a me un grande professore nell'Angelico, un professore Albert Padfort, no? Domenico, quando ho fatto alcuni degli esami finali, non il finale, ma uno degli esami prima del finale che ho fatto con lui di teologia per fare la licenza in quel momento. Bene, adesso comincerà a imparare. Quando lei ritorni, perché io dovevo ritornare in Argentina, non fare la laurea immediatamente, dovevo ritornare in Argentina per cominciare a fare il professore in seminario, e lui sapeva quello, mi diceva: adesso quando lei ritorni in Argentina e cominci a insegnare, lei comincerà a imparare. Cioè quello che avevo fatto fino adesso, che era tutto il seminario, ma tutta la mia licenza, quello non era, non avevo imparato niente, soltanto avevo i mezzi per imparare. E quando uno dopo veramente nella vita fa questo lavoro dell'insegnamento, vede che questa espressione è vera. Uno pensava che so tutto su quello. No, invece quello era soltanto il minimo necessario per cominciare a sviluppare quello che uno dovrebbe imparare lungo tutta la sua vita. Perciò primo momento particolare, bene, quello del seminario, ma con questa coscienza voi dovete uscire e dovete imparare anche con questa coscienza. State imparando i principi, gli elementi principali che vi serviranno per ritornare sugli stessi argomenti che adesso state imparando, per conoscerli veramente. La prima conoscenza è come una conoscenza superficiale, importante, importantissima, senza quella non c'è nessun'altra, no? Ma è la prima conoscenza che ci darà l'opportunità di fare dopo la vera conoscenza. Quando uno ritorna con la sua esperienza, con la sua riflessione su quelle verità, quando quelle verità le vede nella realtà pastorale o anche nei problemi ai quali deve rispondere, le sfide che il mondo ci pone, ci mette davanti. Dopo ci sono i primi anni di vita religiosa nei quali uno va cercando di mantenere ciò che ha ricevuto e continua il suo sviluppo, ma adesso in modo personale e sotto la propria responsabilità. Qui si deve forgiare gli abiti di questa formazione in tutti i piani, perché c'è una cosa molto importante. Ognuno di voi forse ha forgiato in questi anni o sta forgiando certi abiti di studio, ma questi abiti di studio che adesso avete o state forgiando non sono gli abiti di studio che dovrete avere lungo il resto della vostra vita. Perché una volta finito il seminario, la vita non sarà mai come il seminario. Dovrete continuare a studiare, ma in altre circostanze molto più difficili. Non c'è il silenzio, non ci sono i tempi che ci sono i superiori per metterci i tempi, per preparare tutto. No, voi dovete cercare quello. Voi dovrete farvi il silenzio che alle volte è soltanto interiore, perché esteriore non dipende da voi. E dovrete farvi gli spazi particolari di tempo per studiare, e per studiare alle volte certe cose nelle quali voi non vedrete un rapporto immediato con quell'azione pastorale che state facendo, perché non potete limitarvi soltanto a studiare quelle cose che devo predicare prossima domenica. Dovete continuare a studiare delle cose che voi dite, però quello non lo predicherò mai. E tante altre cose che dovete fare per la preghiera, per il lavoro spirituale personale, e quello vedrete che è molto diverso nella modalità, non nella sostanza, ma nella modalità degli abiti che avete adesso in seminario. Perciò c'è tutto un adattamento che tanti sacerdoti e religiosi non fanno, perciò abbandonano la sua formazione quando finiscono il seminario, perché non fanno l'adattamento e pensano: non posso fare lo stesso che facevo in seminario, non faccio niente, perché per me studiare è studiare come in seminario, qui non posso veramente studiare come in seminario, allora forse non sono più obbligato a studiare. E non è così, devo fare tutto un adattamento per continuare lo studio, la preghiera, il lavoro spirituale, il tempo che devo dedicare alla mia vita spirituale, alla revisione costante della mia vita. E c'è questo adattamento, questo è un momento molto importante, che è un momento chiave della formazione permanente, e si fa nei primi anni, dove uno fa questo spostamento, come dico, non di sostanza, ma di modo. La sostanza è quella che voi avete qui, e perciò è la formazione iniziale che deve avere un altro modo, e si chiamerà più chiaramente formazione permanente, ma è la stessa che adesso state facendo, continuata di un altro modo. La Potissimum Institutioni, che è un documento della Congregazione per i Religiosi dell'anno 1990, indica anche come uno dei periodi chiavi di formazione più intensa, no? Il periodo intorno ai 10 anni della formazione perpetua. I 10 anni dopo l'ordinazione, lì, in quel tempo che chiama questo documento tempo di una prima maturità, nel quale, prendendo distanza della vita ordinaria, si deve imparare a dare più qualità e profondità. In questo momento, dice il documento, no, non sono le parole esatte, no? Sto facendo un riassunto, in questo momento per molti religiosi si presenta il pericolo della routine, della perdita di entusiasmo, dell'accontentarsi, della disillusione per la piccolezza dei risultati. In molte congregazioni si prevede perciò un tempo speciale di riflessione sulla propria vita, che può essere un esercizio di un mese, alcuni mesi sabbatici di studio o riflessione personale. Noi pensiamo che perché uno si stanca, 10 anni di lavoro pastorale, un periodo di riposo, no, ma è perché alle volte entri in crisi. Il vedere 10 anni per noi è una data importante, perciò i sacerdoti quando compiono i 10 anni fanno un festeggiamento particolare, no? Ma è anche perché quando uno dice 10 anni, sono passato 10 anni, e uno si mette a guardare cosa ho fatto in questi 10 anni, e alle volte quando uno vede cosa ha fatto in quei 10 anni entra in crisi, perché in 10 anni sono tante cose buone, ma anche fallimenti, tanti progetti che non ha potuto portare avanti, o che ha dovuto lasciare, o che ha lasciato per la sua negligenza, pigrizia, eccetera, no? E perciò è un momento importante, quando si arriva lì, di fare anche dedicare un momento particolare, no? Per ravvivare, ricordate sempre quello, la formazione permanente era un costante ravvivare, ma ci sono dei momenti particolari nella vita dove uno deve dedicare un tempo e certi strumenti particolari per fare questo ravvivamento spirituale, intellettuale, vocazionale, no? A questo alle volte lo si chiama secondo noviziato, seconda approvazione, eccetera. O non c'è nessun nome, dipende di ogni congregazione, no? Come dico, anche può essere l'esercizio di un mese. Noi che abbiamo questo scopo di cercare di avere degli esercizi ogni 10 anni, bene, è un'opportunità, ma non sarebbe propriamente in questo momento, no? Perché se noi facciamo adesso l'esercizio prima di cominciare il seminario, alla fine del noviziato, certamente 10 anni dopo l'ordinazione già abbiamo fatto il nostro secondo esercizio, ma è un periodo che può essere, non necessariamente deve essere un periodo lungo, no? Anche non deve essere necessariamente un periodo né un posto particolare per fare questo, sarebbe ideale, ma non sempre si può. Uno può continuare a fare quel che stava facendo nella parrocchia o dove ci sia, ma dedicare un particolare tempo della sua vita a studiare qualcosa, a revisare, a pregare di più, è un momento importante. Lo stesso documento parla dopo della piena maturità della persona come un altro momento della vita dove deve fare questo lavoro particolare, la piena maturità, no? Cioè quando arriva gli anni della maturità, verso i 40-50 anni, no? Qui possono sorgere, dice, i pericoli dell'individualismo autosufficiente, di presumere di sé, di attivismo, di stanchezza interiore, di sentimenti di inadeguatezza, tentazione di rigidità, di chiusura o di rilassamento. Perciò anche in quell'età, no? Che è l'età che si chiama, no? Anche gli autori spirituali parlavano nel passato del demonio del mezzogiorno, no? nel soggiorno della vita. In quel momento anche un momento particolare per fare una più intensa formazione particolare di questa, no? La formazione permanente. Allo stesso modo segnalano i documenti della Chiesa il momento del ritiro dall'azione a causa dell'età o della salute. Perciò, vedete, abbiamo parlato della formazione iniziale, in seminario, cioè si deve imparare gli abiti. I primi anni di sacerdozio, dove si deve imparare a modificare gli abiti. Modificare gli abiti per questo nuovo stile di vita che ha il sacerdote diverso del seminarista, no? Dopo, intorno ai 10 anni, ha la maturità fisica della persona, non maturità spirituale, che non si può dire che arrivi mai, sempre si deve lavorare in quello. E dopo il ritiro della vita apostolica, quando uno deve lasciare per ragioni d'età, salute, eccetera, no? Per alcuni questo è il ritiro, no? È un momento difficile, per altri no, perché qui si rinuncia alle soddisfazioni dell'attività apostolica, si deve assumere la malattia, se è questa la ragione, o il limite, no? Si possono presentare in questo momento come delle tentazioni, sentimenti di fallimento, di incomprensione, di emarginazione, sensazione di insignificanza e inutilità. In alcuni religiosi finalmente si possono presentare anche delle crisi causate da fattori esterni. Questo è a parte, cioè quello sarebbe i momenti principali in un'etapa normale, no? I primi anni della formazione, i primi anni di sacerdozio, i 10 anni, la maturità fisica, il ritiro. Ma anche ci sono altri sacerdoti che hanno in diversi momenti della vita, diversi di questi, crisi causate da fattori esterni, dice il documento. Per esempio, dice, cambi di attività o luogo di lavoro, fallimenti nella vita apostolica, incomprensioni, emarginazione, conflitti ecclesiali, perdita di persone cari, incidenti o crisi causate da fattori interni, malattia fisica o psichica, tempi di aridità spirituale, forti tentazioni, crisi di fede o affettive e diverse esperienze che possono essere momenti dove si deve fare questo lavoro particolare di formazione permanente. Quali sono le dimensioni della formazione permanente? Ho detto all'inizio che uno dei pericoli, dei nemici della formazione permanente, è il considerare la formazione permanente come riguardante a un solo aspetto della vita. Allora, quali sarebbero tutti gli aspetti? Questi aspetti diversi, che sono inseparabili e si influenzano mutuamente, principalmente sono 4. Innanzitutto la dimensione umana. E guardate l'ordine. Primo, la formazione, la dimensione umana. La crescita in un'affettività matura e nella responsabilità personale che ci permetta di essere padroni di noi stessi. Dice Giovanni Paolo II nella Pastores Dabo Vobis. Senza una opportuna formazione umana, l'intera formazione sacerdotale sarebbe priva del suo necessario fondamento. Se noi non siamo umanamente maturi, non possiamo essere neanche buoni sacerdoti. Un sacerdote è un uomo sacerdote. Se uno non è buono come uomo, non può essere buono come sacerdote. La grazia suppone la natura. La grazia non distrugge la natura, ma la sana, eleva, perfeziona, dignifica, nobilita. Inoltre, il lavoro sulla formazione umana è fondamentale anche per il fatto che ogni sacerdote, e questo è anche parole di Giovanni Paolo II, deve cercare di riflettere in sé, nella misura del possibile, quella perfezione umana che risplende nel Figlio di Dio fatto uomo e che traspare con singolare efficacia nei suoi atteggiamenti verso gli altri, così come gli evangelisti li presentano. E questo è molto interessante, questo vuol dire che ognuno di noi deve studiare l'umanità di Gesù Cristo nei Vangeli. Questo sta dicendo il Papa. Dobbiamo studiare come Gesù, come uomo, come parla, come si comporta, come tratta gli altri, come tratta i suoi nemici, l'atteggiamento di Gesù verso la donna, verso i suoi amici, di fronte al dolore, e cioè come uomo. Perché noi tante volte, certamente, quando preghiamo, guardiamo particolarmente la divinità di Gesù Cristo. Questo è, certamente, lui è Dio, ma è anche vero uomo. E noi dobbiamo riflettere nella nostra umanità, dice il Papa, come sacerdoti, l'umanità di Gesù Cristo. Per questo, anche queste sono parole del Papa, deve coltivare una serie di qualità umane necessarie alla costruzione di personalità equilibrate, forti e libere, capaci di portare il peso delle responsabilità pastorali. Questo implica, innanzitutto, l'educazione dei propri sentimenti, l'ordinare gli amori, come si dice in linguaggio agostiniano, l'amore a Dio, alla Chiesa, alle anime, alla famiglia, agli amici. Tanti dei nostri problemi sono problemi dell'ordine dell'amore, perché alle volte sono delle cose buone, ma che non si trovano nell'ordine giusto. Quante vocazioni sono fallite, per esempio, perché l'amore verso la famiglia è stato posto prima dell'amore di Dio, dell'amore della Chiesa o della volontà di Dio. Per esempio, uso un esempio solo. Non è un amore cattivo, al contrario, è buono. Il problema è l'ordine dell'amore. L'educazione, allora, in primo posto, dei propri sentimenti. In secondo posto, sempre questo del Papa, l'educazione della libertà. Essere liberi significa fare le cose per amore a queste. Fare il bene, sebbene nessuno ci guardi, ci controlli. Non per lodi o premi, non per ossequio, né per avere vantaggi, ma per convinzione. Quello è l'educazione della libertà, e in terzo luogo l'educazione della coscienza, essere rispettoso della propria coscienza significa abituarsi ad ascoltare la voce di Dio che parla nel nostro cuore attraverso le esigenze della legge naturale e della legge divina, particolarmente quella evangelica. Questo sarebbe la prima dimensione, la dimensione umana, con questi tre aspetti particolari, non unici certamente. Secondo luogo, la formazione spirituale, che è il centro di tutta la nostra formazione permanente, è il centro. Ma avete visto che non è in primo posto. perché la grazia suppone la natura, come abbiamo detto. Allora, in primo posto è la formazione umana, in secondo posto è la formazione spirituale. Dice la Optatantosius del Concilio Vaticano II per la formazione dei seminaristi, nel numero 8 ha un parrafo nel quale possiamo trovare tutti gli elementi della formazione spirituale di un seminarista, di un sacerdote. Dice così: la formazione spirituale sia impartita in seminario in modo tale che gli alunni imparino, e qui comincia a parlare di quelle che possiamo dire sono i diversi aspetti della formazione spirituale. Io metto i numeri, il documento non ha elencato questo, no? Primo, imparino cosa? Primo, a vivere in intima comunione e familiarità col Padre Dio, no? Per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, destinati a configurarsi a Cristo sacerdote per mezzo della sacra ordinazione, si abituino anche a vivere intimamente uniti a Lui come amici. In tutta la loro vita viva il mistero pasquale di Cristo, in modo da sapervi iniziare un giorno il popolo che sarà loro affidato. Primo, vivere intima comunione e familiarità con Dio. Secondo, si insegni loro a cercare Cristo nella fedele meditazione della parola di Dio, Bibbia, Sacra Scrittura, nell'attiva partecipazione ai misteri sacrosanti della Chiesa, e soprattutto, terzo, nell'Eucaristia, e quarto, nell'ufficio divino, nonché, quinto, nel Vescovo che li manda, cioè la relazione con la gerarchia, noi siamo religiosi, dobbiamo mettere i superiori, e sesto, negli uomini ai quali sono inviati, specialmente nei poveri, nei piccoli, infermi, peccatori e increduli. Settimo, con fiducia filiale amino e venerino la Beatissima Vergine Maria, che fu data come madre da Gesù Cristo morente in croce al suo discepolo. Sette elementi della vita spirituale. Sette elementi della vita spirituale, gli essenziali: l'intimità con Dio, con la Santissima Trinità, no? Il cercare Dio principalmente nella scrittura e nei misteri, nella liturgia, particolarmente l'Eucaristia, l'ufficio divino, la relazione con i superiori, la carità pastorale o apostolica e la relazione con la Vergine. Sono gli elementi della vita spirituale, l'Optatantosius, in questo paragrafo numero 8. Terza dimensione della formazione permanente, la formazione intellettuale. E guardate, insisto in questo, guardate i posti, in terzo luogo. E lo dico così perché tante volte quando noi sentiamo parlare di formazione permanente pensiamo che si parla soltanto di formazione intellettuale. Perciò la metto in terzo posto e insisto che è in terzo posto. È molto importante, certamente. Però avete guardato che con queste cose possiate vedere bene che ci sono gli altri due elementi più importanti ancora. Il direttorio per il ministero della vita e la vita dei presbiteri, nel nome numero 77, insiste fortemente sulla necessità della formazione intellettuale come parte della formazione permanente. Oggigiorno sono molte le sfide con le quali il sacerdote si confronta: problemi sociali, l'apostolato dei mezzi di comunicazione, rispondere a interrogativi del progresso tecnico, incertezze su questioni di fede. Il popolo fedele si aspetta che il sacerdote abbia delle risposte per tutti questi problemi. Ed è così, il sacerdote è il maestro. E uno non può dire, io di queste cose non conosco, sì, ma lei è il maestro. Almeno i principi morali di orientamenti, no? Ci deve dare. non dico che mi dica qualcosa tecnico su questo, ma la mia posizione morale di fronte a questo. E perciò uno deve studiare tanto, no? La stessa predicazione, la direzione spirituale delle anime, la confessione, il discernimento nelle dottrine che nascono giorno dopo giorno. Il sacerdote deve essere in grado di affrontare tutti questi argomenti, e questo implica che il sacerdote si deve preparare molto bene per questo nel seminario, e che dopo deve completare la sua formazione e continuare sempre a mantenere e aumentare il suo sapere. Nuovamente la Pastores Dabovovis dice così: la situazione attuale, poi, pesantemente segnata dall'indifferenza religiosa e insieme da una sfiducia diffusa nei riguardi della reale capacità della ragione di raggiungere la verità oggettiva e universale, cioè di conoscere la realtà, no? E da problemi e interrogativi inediti provocati dalle scoperte scientifiche e tecnologiche, esige con forza un livello eccellente di formazione intellettuale, tale cioè da rendere i sacerdoti capaci di annunciare proprio in un simile contesto l'immutabile Vangelo di Cristo e di renderlo credibile di fronte alle legittime esigenze della ragione umana. E livello eccellente di formazione. Si aggiunga inoltre che l'attuale fenomeno del pluralismo, quanto mai accentuato, nell'ambito non solo della società umana, ma anche della stessa comunità ecclesiale, chiede una particolare attitudine al discernimento critico e un ulteriore motivo che dimostra la necessità di una formazione intellettuale quanto mai seria. Quanto mai seria. Questo implica continuare permanentemente lo studio della lettura della filosofia, della teologia, della Sacra Scrittura, del Magistero, della cultura in generale e dei problemi attuali, morali, sociologici, politici, scientifici. E la quarta e ultima dimensione è la formazione pastorale. Rivitalizzare il senso missionario e apostolico nel nostro caso, no? Dobbiamo continuare permanentemente a migliorare la nostra capacità di predicare missioni, esercizi spirituali, perfezionare la nostra pastorale parrocchiale, liturgica, eccetera. Oggigiorno si deve prestare una particolarissima attenzione alla pastorale familiare e matrimoniale, alla formazione dei fidanzati. Dobbiamo perfezionarci anche ogni volta nella pastorale dell'educazione, scuole, corsi, eccetera, no? Insisto in questo, la formazione familiare e matrimoniale. Ogni sacerdote avrà questo compito. Forse non tutti insegneranno nelle scuole, forse non tutti predicheranno dei ritiri spirituali o esercizi spirituali, forse non tutti dovranno scrivere, ma credo che tutti dovranno formare delle famiglie. Formare nel senso di intellettuale, di dirigere spiritualmente i fidanzati, gli sposi, i figli. E rispondere ai diversi problemi familiari. Perciò ogni sacerdote, oggigiorno in particolare, voi siete al corrente di queste discussioni sul matrimonio in questi due sinodi dell'anno scorso e dell'anno anteriore, l'anno scorso, certamente vedete che è una cosa dei nostri giorni, tutti dobbiamo lavorare con questo, perciò l'essere specialisti nella famiglia, nella pastorale familiare, mi sembra che è universale per il sacerdote, oggigiorno. L'attuale battaglia della Chiesa è per la famiglia. Se un soldato non è preparato per l'attuale battaglia, non serve per la guerra. Chi sono gli agenti della formazione permanente? Innanzitutto, lo Spirito Santo è il nostro primo formatore, il primo formatore. È la mano amorosa di Dio che dai nostri primi passi ci va modellando interiormente al fine di farci più vicini al cuore di suo Figlio. Cioè, lo Spirito Santo. Allora, lo chiamiamo primo formatore. Invece, l'agente principale della nostra formazione permanente, sono due titoli diversi, no? Primo formatore e agente principale, invece, è la comunità religiosa, e in particolare il superiore locale, che deve vigilare attentamente affinché ogni religioso e la stessa comunità come tale si mantengano in un processo permanente di crescita. Perché quello, formazione permanente, è processo di crescita, abbiamo detto all'inizio. Gli tocca una speciale, sebbene non esclusiva, responsabilità al superiore di aiutare a superare i momenti di paralisi personale, di stanchezza rutinaria, di disincanto, di false sicurezze di un determinato fratello o comunità. Perciò la comunità religiosa si deve preoccupare di che la comunità stessa e ognuno dei membri facciano questo della formazione permanente. Agente principale, no? La comunità religiosa, particolarmente nella figura del suo superiore, che deve attuare sulla comunità come tale, perché tutta la comunità deve fare formazione permanente, e su ognuno dei suoi membri. Può essere che nel nostro istituto, come in ogni istituto, Dio susciti alcune persone con carismi speciali per aiutare gli altri nel compito della formazione. Questi sarebbero altri particolari strumenti di Dio. Ogni congregazione ce l'ha questi membri con carismi speciali, notevoli direttori spirituali, riferisco a questo, no? A chi lavora tenendo corsi di formazione, chi incoraggia gli altri con i suoi scritti o libri, chi dirige le pubblicazioni che alimentano la formazione degli altri, chi lavora nella predicazione degli esercizi spirituali agli altri membri dell'istituto, eccetera. Queste persone sono persone particolari che Dio suscita e che lavorano in particolare per questa dimensione. Questo è uno strumento più straordinario. L'ordinario, come ho detto, è la gente ordinaria, è la comunità religiosa con il suo superiore in particolare. Nella misura del possibile ci dovrebbe essere una persona incaricata di questo tema nell'istituto, dice la Potissimo Istituzioni nel numero 71, dice: sarà designato dai superiori un responsabile della formazione permanente, ma si dovrà anche badare che i religiosi durante tutta la loro vita possano avere a disposizione guide o consiglieri spirituali secondo la pedagogia già usata durante la formazione iniziale e secondo modalità adatte alla maturità acquisita e alle circostanze che si attraversano. I direttori spirituali, consiglieri, eccetera, no? Sarebbero questo. Ma l'ideale è che in ogni congregazione o in ogni provincia, in ogni regione religiosa, ci sia anche uno che faccia questo questo seguimento, no? Finalmente i mezzi per la formazione permanente. Quali sono i mezzi? I mezzi sono molti e molto vari, però il principale mezzo di formazione permanente è la vita religiosa quotidianamente vissuta con qualità e onestà, come una risposta di amore al dono di Dio. Perciò le volte non dico, io devo fare formazione permanente, ma io non ce l'ho dei tempi particolari. Quali tempi particolari? È vivere la vita religiosa bene, già fare formazione permanente. È il mezzo più ordinario, ci sono degli altri mezzi, no? Questo mezzo è quello che dà il suo autentico senso a tutti gli altri mezzi. Perciò la preghiera quotidiana, la celebrazione quotidiana della Santa Messa, l'adorazione, il vivere l'anno liturgico, la sana eutrapelia, il dialogo interpersonale, il servizio apostolico, l'attenzione ai membri infermi e tanti altri elementi ci aiutano a migliorare la nostra vita religiosa. E vivere quello. Per esempio facciamo un importante atto di formazione permanente, personale, quando noi leggiamo, per esempio, le croniche degli altri missionari, dei nostri missionari. Perché quando facciamo quello, noi nutriamo il nostro desiderio di essere missionari. E quelli che scrivono quelle croniche sono di questi che hanno dei carismi speciali per aiutare gli altri. Perché anche se loro non lo sanno, ma stanno facendo la formazione permanente dei suoi fratelli. È certamente così. Quanti dei nostri religiosi mantengono e crescono nel suo ardore spirituale per quello che leggono dei missionari? È così. Quello è il mezzo ordinario, no? Il vivere la vita religiosa di ogni giorno bene, punto. Viverla bene. È come gli aerei che devono sempre essere in servizio. Gli aerei non si possono guardare, come si dice, no? Non guardare, non mettere. Parcheggiati permanentemente, si guastano, devono fare delle ore, no? Si dice ore di servizio, perché questi motori particolari si conservano nella misura che si mettono in azione e si guastano nella misura che si detiene. Si fermano. Con la nostra vita spirituale è lo stesso. Ma ci sono anche alcuni mezzi specifici di formazione permanente, per esempio esercizi spirituali a ritiri, in particolare gli esercizi di un mese, che sarebbe ideale rinnovare ogni 10 anni, la lettura meditata di nostri documenti ufficiali, costituzione, direttori, regolamenti, lettere circolari, la Pontificia Istituzione dice particolarmente, mette come mezzo specifico la conoscenza e approfondimento della storia e spiritualità del nostro istituto, così come gli scritti del nostro fondatore. Dice il documento così: la formazione continua si deve realizzare avendo in conto i suoi diversi aspetti. Sono degni di considerazione i seguenti aspetti: la fedeltà al proprio carisma, con una sempre migliore conoscenza del fondatore, della storia dell'istituto, del suo spirito, della sua missione, e uno sforzo correlativo per viverli personalmente ed in comunità. anche le celebrazioni delle feste proprie dell'istituto, per le quali si mantiene lo spirito dello stesso, e celebrandosi in tutte le comunità del mondo si aumenta il senso di unità a prescindere dal fatto di stare tanto sparsi. La direzione spirituale e il dialogo con il superiore, che sono due cose diverse, ma i corsi di formazione, conferenze, dibattiti, capitoli provinciali, i tempi sabbatici, quando è possibile averli. Guardate in quale posto ho messo questo, no? Tante persone pensano che loro non fanno formazione permanente perché ancora, no, non hanno avuto un tempo sabbatico nella sua vita. È uno dei mezzi, tante volte quel mezzo no, tanti religiosi non l'hanno avuto mai. Gli studi di specializzazione posteriori al seminario, che nel nostro istituto si suggerisce che si facciano nella misura del possibile a Roma, per acquisire quello che le nostre costituzioni chiama lo spirito romano. E nel piano più personale, leggere riviste teologiche, in particolare quelle proprie del nostro istituto, buoni libri, scrivere, pubblicare, portare avanti un diario spirituale personale, quello è molto importante, per noi stessi, usare correttamente i mezzi di comunicazione, eccetera. Finisco tornando sull'esortazione di San Paolo che ho letto all'inizio. Ti raccomando di ravvivare il dono di Dio che è in te. Questa è la formazione permanente, ravvivare il dono di Dio che Dio ha messo in noi, no? Non soltanto nell'ordinazione, qui si parla di quello, ma non soltanto quello, quel dono della grazia, quel dono della luce intellettuale, della verità che conosciamo, no? Di ravvivarlo. Dobbiamo lavorare costantemente affinché il nostro fuoco non si spenga e ogni volta arda di più, illuminando l'oscurità di questo mondo. Sì. Sicuramente gli argomenti da approfondire con l'ordinazione sono infiniti, no? Mm-hmm. Diciamo, che consiglio può darmi o darci su qual è il tema? Magari ho fatto un accenno prima quando parlava dei problemi che ci sono adesso, soprattutto con la famiglia e il matrimonio, magari in base alle esigenze uno può prendere quella direzione, oppure quali principi può darci così per regolarci su quali argomenti poi possiamo approfondire. Cioè, non penso che sia una cosa da piacere. Sì, è vero, è vero. Credo che si debba dire così. Dobbiamo essere attenti allo Spirito Santo. Perché? Perché Dio parla in modi molto diversi ad ognuno di noi. E forse ci sono delle persone alle quali Dio gli chiede di studiare, di approfondire qualcosa tramite certe circostanze nelle quali vive, per esempio per un impegno pastorale che gli hanno dato, sul quale lui non si sente in condizione di portarlo avanti così, e deve studiare, tante persone hanno trovato il suo argomento di studio, per esempio di studio, di lavoro, gli altri, perché ci sono delle cose che sono uguali per tutti, no? La meditazione, eccetera, quello abbiamo visto, quello forse che sarebbe più di definire in ogni caso è nella formazione intellettuale posteriore al seminario, no? L'altro certamente che è uguale per tutti, no? custodire la preghiera, la vita interiore, l'apostolato, eccetera, no? Come dico, per tante persone è per esempio per l'impegno pastorale, perché lo hanno fatto, non so, professore di un corso particolare che lui non conosceva, o deve tornare a studiarlo. Altre volte per un impegno particolare, perché si deve incaricare, non so, dei matrimoni, o perché lo fanno, o li cominciano a chiedere direzione spirituale, e lui si sente che deve studiare particolarmente, approfondire la dottrina spirituale dei grandi maestri. E tante volte non è così, è un argomento che lui dal seminario già aveva voglia di approfondire, quando abbia più libertà di scegliere, perché adesso nel seminario voi dovete studiare quello che dovete studiare, ma forse qualcuno ha in mente già qualcosa che gli piace in particolare, la storia, o un argomento storico particolare, o una verità dogmatica particolare, e quando trova il suo tempo più libero, o quando lui può decidere cosa studiare, decide per quel modo. Perciò ho detto quello, no? Essere attento allo Spirito Santo, perché ci può parlare per le circostanze, o non parlare affatto per le circostanze, ma cioè non ci chiedono niente in particolare, mi sento molto libero, ma ho già questo ideale particolare, questa verità che mi ha a cuore da tantissimo tempo, tanti anni forse, e che anche uno già ha preso delle notte, no? Su quello, e comincia a studiare quello. Quello che non si può fare è quello che alle volte, quando il sacerdote appena ordinato parla con il suo direttore spirituale e gli dice, lo so perché me l'hanno detto alcuni sacerdoti già, no? Bene, adesso devo cominciare a studiare. Io pensavo di studiare tutti gli argomenti del seminario di nuovo, per dove comincio? E quello non si può fare, non è così, non è riprendere tutto il seminario. Si deve cercare qualcosa di particolare e studiarlo fino in fondo. Quando uno studia quello fino in fondo, tutte le altre conoscenze che ho avuto in seminario anche prendono vita di nuovo. Perché se uno fa un secondo seminario da sé, se non ho potuto studiare bene in 7 anni, con tutto il tempo soltanto per quello, e voglio fare il seminario di nuovo per conto mio, e facendo un lavoro pastorale, quanti anni hai bisogno? 50. Comincia con la logica, no? È impossibile. Si deve cercare un argomento, e tante volte gli argomenti vengono anche nella predicazione, nella meditazione, nella preghiera. E tante volte, perciò insisto in quello, essere attenti alla voce dello Spirito Santo, tante volte quello che noi dobbiamo studiare in particolare viene definito da quel bisogno dei nostri, dal bisogno dei nostri figli spirituali. Perché uno si trova con persone che deve aiutare in cose che uno non ha capacità sufficiente, e deve studiare per aiutare quelle persone. E cercando di leggere un po' di più per aiutare questa persona con questo argomento, quell'altro, finisce per studiare quell'argomento che lui non pensava di studiarlo. Tanti dei libri, particolarmente quelli della collezione Virtus che io ho scritto, soprattutto i primi, bene, sono stati definiti così. Non ho detto io su cosa voglio potrei scrivere, scriviamo sulla umiltà. No, non è stato così. ho dovuto aiutare una persona che doveva lavorare sull'umiltà e io non ho trovato niente per dargli. Ho cercato un libro già scritto e non l'ho trovato. Ho cercato un libro già scritto sul giudizio proprio e non l'ho trovato. E dopo di pregare molto ho visto che dovevo scriverlo io, perché non era una persona ma erano già due che chiedevano lo stesso, tre, quattro, e già bene, evidentemente Dio dice studia tu, scriverlo, almeno qualcosa semplice per queste persone. E Dio parla così, no? E quello finisce per essere la tua formazione permanente. In quel campo concreto, che come ho detto non è il principale, ma è forse il più quel che ci viene primo in mente quando parliamo di formazione permanente, perché forse è il più cambiante per questo, perché gli altri sono sempre, sono regolari, no? La preghiera, eccetera, no? La direzione spirituale, la formazione umana, il lavoro sulle virtù, il dominio su noi stessi, eccetera. Non sono più domande pericolose. Ecco. Pensa che, cioè, all'interno dell'istituto serve anche inventare degli apostolati, come lei ha detto adesso, cioè inventare degli apostolati nel senso, come ha detto lei, le virtus sono scaturite da, cioè, da un fatto, da un'ispirazione sicuramente, però c'è, cioè, il fatto che per aiutare proprio gli altri, per aiutare i fratelli, in questo senso. Sì, inventare, non inventare, è rispondere, perché cioè mi sembra che la parola giusta sarebbe, per parlare di apostolati come tu hai parlato, no? Sarebbe quello di essere attento a poter rispondere ai bisogni degli altri. Tanti apostolati, noi non inventiamo apostolati come uno che dice che non so cosa fare, sono annoiato, inventiamo un apostolato, no, ma per rispondere a questi bisogni che ci sono oggi, dei giovani, dei malati, anche per risvegliare le vocazioni, eccetera, i mezzi che abbiamo forse sembrano che non servono o non sono sufficienti, eccetera. Cosa sarebbe più adatto in questo momento? Quel cercare, che anche è il senso della parola invenzione. Invenzione vuol dire trovare, no? Sì, forse trovare. Sì, sì, sì. Però sarebbe quello, cioè essere attenti ai bisogni particolari della Chiesa, no? O degli uomini, diciamo, poi la Chiesa anche deve uscire ai bisogni degli uomini, no? Allora lì uno, la Chiesa sempre cercando se i mezzi che ce l'ha rispondono a questi bisogni o si deve cercare forse altri mezzi che Dio suscita costantemente. Anche le diverse congregazioni e movimenti nella storia della Chiesa risponde a questo, ai bisogni. Dio risponde tante volte con la fondazione di nuovi istituti religiosi, eccetera, per bisogni che non c'erano prima. Lei padre ha fatto l'esempio di studiare un argomento fino in fondo, e questo aiuta anche le altre cose che si sono studiate. Sì. E più o meno questo, quello che lei intendeva dire quando parlava dell'adattamento a un nuovo modo di studiare, che si avrà a fine del seminario, o è anche questo? È uno degli aspetti, Certamente quell'adattamento che uno deve fare dei suoi abiti di studio, che aveva in seminario, a fare l'adattamento alla nuova vita del sacerdote, no? O religioso non sacerdote, perché può aver fatto i voti perpetui. Questo adattamento è un adattamento in un doppio senso. Un adattamento su argomenti, certamente in seminario gli argomenti di studio vengono dati per il programma di formazione. Io non sceglio gli argomenti mi vengono proposti, no? Ma quando devo continuare io la formazione, devo cercare io quello, no? Devo avere anche quella lucidità di sapere che cosa importante bisogna studiare, non perdersi con la curiosità delle cose secondarie, no? Quella è una scelta di argomenti, certamente. Ma anche l'adattamento viene fatto per un'altra cosa, per cercare dei momenti particolari, quando studierò. No? In che modo studierò, anche in che modo difenderò quel momento, quell'aspetto della mia vita, perché anche la formazione permanente, ora dico, mi riferisco alla lettura spirituale, lo studio, quello in particolare, si deve difendere, perché ci sono tante cose che al sacerdote sembrano urgentissime, che si comincia per sacrificare la formazione personale e dopo uno vede, dopo tanti anni, che quello per cui ha sacrificato la formazione personale viene anche messo in pericolo, perché al non formarmi neppure quello per cui ho rinunciato allo studio, alla preghiera, alla lettura, non posso portarlo avanti. Ma ci sono tante cose, no? Ci sono tanti malati, allora non posso studiare perché in questa parrocchia sono tanti malati. Sì, ma neanche saprò cosa dire ai malati tra 5 anni se non ho studiato o non ho... E qui ci sono tante persone, tutto il giorno sto ricevendo delle persone che chiedono il mio consiglio, sì, ma dopo un anno dove soltanto do dei consigli ma non studio, non so quale consigli dare. Ed è così, e devo difendere quello, no? Sempre con un equilibrio, evidentemente, non essendo meno generoso, ma cercando di essere più generoso. Ma sempre quello si deve difendere, quello è quell'abito, implica anche quello, l'abito della difesa di quei momenti particolari che uno deve avere e cercarli, perché i momenti particolari e specifici della formazione del sacerdote sono momenti anche di grande sacrificio. Sono momenti di sacrificio. Alle volte uno unifica in quei momenti la sua penitenza, devo fare anche penitenza, la penitenza la fai togliendo un po' di riposo per continuare a studiare. Perché se non togli un po' del tuo riposo per studiare, non hai il tempo di studiare o di leggere. E perciò anche la formazione in questi aspetti alle volte unifica quello, la nostra penitenza con questo, no? Lo spirito di penitenza, eccetera, è anche quello, no? perché se uno cerca i momenti particolari dove uno veramente si sente a piacere per leggere, studiare, quei momenti non esistono. Non esistono. Se ho capito bene, lei propone una formazione che sta in contatto con la realtà dove uno si trova posteriormente per un seminario, e parallelamente lei propone un ideale che uno deve avere, un ideale, sì, a seguire, è giusto questo? Non so se ho capito bene la domanda. Falla di nuovo. Io voglio riassumere un po'. Sì. Volevo chiedere se ho capito bene. Sì. Se lei propone per la formazione permanente una formazione che sta in contatto con la realtà dove uno dopo del seminario si trova. Cioè, intendendo i diversi bisogni, diciamo così, e parallelamente non perdere anche un diario. Cioè, bene, sì, sì. Certamente uno deve avere le due cose. Uno deve avere nella vita sempre un ideale personale. Non mi riferisco all'ideale ultimo che è sempre Gesù Cristo, la santità, ma mi riferisco anche a un ideale molto concreto forse di un lavoro personale che uno vuole fare, forse nel piano intellettuale, forse anche in certe altre cose di qualcosa che uno vuole fare nella vita, mettiamo nel campo degli studi che uno gli piacerebbe, non so, di approfondire particolarmente certe cose. Quello è un ideale forse che ha avuto dal tempo del seminario. Quando deve fare la formazione permanente, certo deve avere in mente quello, no? O sea, quello è stato il mio ideale di tutta la vita, di quello che volevo fare il giorno che io potessi scegliere cosa studiare, cosa approfondire, eccetera. Ma anche devo essere attento se questo è il momento o adesso le circostanze dove mi trovo, no, esigono qualcosa più urgente, perché non sempre il più importante per me è il più urgente. E Dio forse mi dice: sì, quello che hai in mente è molto importante, lo farai un giorno, ma non adesso tu devi metterti a fare questo lavoro, perché in quella circostanza che ti ho messo c'è questa urgenza e ti dovresti formare per rispondere a questa realtà. Tanti santi hanno fatto grandissime opere richiesti per le circostanze, per la voce di Dio nelle circostanze, ma non era quello che loro pensavano che era il loro ideale. Dopo si sono resi conto che certamente era il cammino di Dio, ma loro volevano fare qualcosa e Dio gli chiedeva un'altra con urgenza, facevano quello. Quando finivano, adesso mi metto a fare quello che ho in mente e Dio gli chiede un'altra cosa. È così. Allora si deve vedere, perciò ho detto prima, di essere attenti alla voce dello Spirito Santo. Perché forse lo Spirito Santo ti dice: bene, qual è stato il tuo ideale? Io ti ho messo quell'ideale in seminario, adesso sei libero, perché non... Cercalo, approfitta adesso, ma forse lo Spirito Santo ti dice: adesso no, adesso ti hanno incaricato di fare questo e tu non sei in condizioni di fare quello, devi metterti a lavorare per acquisire le qualità necessarie per rispondere a questo bisogno, a questo compito che ti hanno dato, non so, nella vita pastorale, e forse sarà la tua formazione di metterti in condizione di rispondere a quello. Quella sarà il tuo lavoro di formazione permanente durante un tempo, di acquisire quelle quelle qualità che dopo Dio ti dirà perché ha avuto quei piani tanti tempo fa. Quanti di noi diciamo così, se io non avessi andato in quel posto non mi avessi visto in quella situazione quel bisogno di studiare quello, io mai avrei studiato quello, e adesso vedo quanto bene mi ha fatto. Ma l'ho studiato perché mi sono trovato con quel bisogno, se non per piacere non l'avrei fatto mai. Lei ha detto che questo qui è uno dei mezzi migliori per la perseveranza anche nella vocazione sacerdotale, la formazione del rimanente. Io infatti mi sono accorto anche questi giorni a casa, ho saputo di storie di persone anche in varie diocesi sparse in Italia, che dove la formazione più era, diciamo così, a volte moderna e più a volte anche sacerdoti che lasciavano il proprio ministero. Mi ricordo che lei l'anno scorso accennava del suo apostolato in Argentina, un centro di recupero, diciamo, per i sacerdoti che si prendono un periodo sabbatico. Questi sacerdoti qui che, diciamo, perdono la fede anche per questo motivo, come si potrebbe fare per dargli una mano, per aiutarli? Perché per esempio c'è anche una Grosseto, un amico mio di famiglia, che lui è sacerdote da un anno e mezzo e ora, diciamo, che si è allontanato dal ministero e vuole lasciare tutto. Uno come potrebbe fare per aiutare queste persone? Bene, c'è l'aiuto universale che è la preghiera, no? La preghiera, il buon esempio, l'essere vicino alla persona per quando quella persona voglia essere aiutata, no? Quello universale, quello si può fare sempre, ogni persona lo può fare e si può fare sempre. Dopo c'è l'aiuto più specifico, quell'aiuto bisogna necessariamente che la persona voglia essere aiutata, perciò sempre dobbiamo stare in attesa di quel momento, perché non sempre vogliono essere aiutati. Che la persona voglia essere aiutata, e dopo, una volta che voglia essere aiutata, bisogna sempre fare un diagnostico sul problema per vedere quale sarebbe la terapia propria, anche terapia nel senso spirituale, diciamo, i rimedi, no? Non si può, in questo secondo non si può dare una risposta universale, perché come è lo stesso di dire io conosco tante persone malate, come posso aiutarle? Dipende qual è la malattia. Se quella certa malattia, forse il rimedio è questo, un'altra malattia il rimedio è un altro, no? Ma in ogni caso sempre ho bisogno di questo. Quando sono malattie spirituali, psicologiche o spirituali, sempre ho bisogno della volontà della persona, no? Questo a differenza con le malattie fisiche. Una malattia fisica io posso cercare di curarla anche se la persona non vuole, perché se la persona la dormono, io posso forse lavorare sul suo corpo con un medico. Gli portano un malato che non vuole essere guarito, ma se lo portano e il medico vuol fare qualcosa, può guarirlo, anche se lui non vuole, no? Ma le malattie dell'anima è impossibile. La malattia dell'anima, perché nelle malattie dell'anima, malattie in senso ampio, no? Non c'è propriamente parlando malattia dell'anima, no? Ma diciamo i problemi spirituali o psicologici, quel che aiuta il direttore spirituale, il confessore, il consigliere o in un altro piano il psicologo, eccetera, è una persona senza mani. È una persona senza mani, una persona che ha la conoscenza ma non ha mani. Allora, lui dice, lui vede, giudica, no? E con la sua prudenza trova il mezzo per rimediare il problema, e soltanto può dire al malato che ha le mani: devi fare qualcosa, ora mettiti questo lì. Allora lo deve fare lui: io non ce l'ho le mani, ma so cosa devo dirti, tu devi farmi caso. Allora sempre ho bisogno della sua volontà, perché se adesso prendi del tè, non voglio, allora, se fosse un malato fisico gli prendo la bocca e gli mettiamo il tè, come sia. Nell'anima non si può fare così, no? Perciò quelle due cose, no? La sua volontà, e dopo bisogna vedere qual è la malattia specificamente parlando, per vedere qual è il rimedio, no? Sempre. Sì. Allora, noi sappiamo che lei ha scritto tanti libri, e sappiamo anche che lei è impegnato in diversi appassionati, come, cioè, il teologo risponde, che, come diceva Alessandro, questo cerchio di recupero, però non sa c'è quanti. Quindi lei ci può dare qualche consiglio, come fare quando domani ci troviamo, cioè, nella stessa condizione di lei, come possiamo fare, però... Puoi fare di più, non tante cose come faccio io, sono di più ancora, no? E l'audacia, come è? Audacia, sì? Audacia? Audacia, no. devi essere audace, non avere paura. Cominciare a farle con fiducia in Dio. Ed è così. Anche non devi essere una cosa molto importante, un difetto, che è un difetto del tutto speciale, perché è un difetto che sembra una qualità buona. Ma è un difetto. Non devi essere perfezionista. Il perfezionista vuole che le cose siano sempre perfette. Allora, quando lui vede che una cosa non sarà perfetta, non la fa. Ma nella vita veramente non c'è niente perfetto. Perfetto è soltanto Dio. Le nostre opere come umane non sono perfette. Sono sempre, no? Così perfette come posso farla io adesso. C'è una perfezione, ma la perfezione dell'opera umana è sempre una perfezione relativa. Il perfezionista cerca sempre una perfezione assoluta, no? Certamente io non so preparare il migliore tè del mondo, ma posso preparare il tè della miglior forma che io, che posso farlo io, del migliore modo che posso farlo io. Bene, Dio mi chiede quello, che lo faccia nel miglior modo che posso farlo io. Il perfezionista non vuole del miglior modo che posso farlo adesso, forse adesso sono limitato, malato, eccetera, no? Ma vuole una perfezione assoluta, come lui dice: no, adesso non ci sono tutte le condizioni, perché no, bisogna un altro, diverse cose qui che non ci sono, eccetera, non lo faccio, e nessuno prende il tè, perché lui fa il tè soltanto se sarà il migliore tè del mondo. E perciò lui, avendo una grande capacità, non fa niente. I perfezionisti non fanno mai niente. Il contrario del perfezionista non è l'imperfezionista, è il realista. Cioè quel che fa, quel che si può fare. Sì, questo non sarebbe il migliore seminario del mondo, ma è il migliore che possiamo fare adesso. È quello che Dio ci chiede. E facciamolo. Dio saprà perché non ci dà i mezzi per farlo migliore. Ed è così. Il nemico di tante opere buone è il perfezionismo, come è il nemico di tante anime, della santità di tante anime, perché tante anime vuole sante, ma santissime vuole essere. Allora, come santissimo non posso fare, non posso essere, allora sono un peccatore, abbandono il cammino della santità. Vedete così. Si perde il senso della realtà cristiana. Bene, ringraziamo Padre Puente. Il libro non è